qualcuno qua. Hola. C'è qualcuno là? Ciao Natali. Ciao Fra. Buonasera, ben sentito. E allora, tutto tranquillo, che si dice? Che si dice? Stamattina ho telefonato a Giulio e mi ha detto una certa cosa. Vabbè, gli ho detto darti il mio numero, così almeno mi puoi telefonare o su WhatsApp. WhatsApp non lo uso, Natali. Comunque immagino cosa farei. Sì, vabbè. Già è che l'ho telefonato e non mi risponde, c'è la segreteria, magari è spento, capito? Quindi dovevo chiedere una situazione. Ma visto che giornata oggi, ci sarà la tavola piena. Noi possiamo viaggiare fuori dal comune. Natali, mi hai letto nel pensiero praticamente, guarda, proprio in questo istante mi stavo controllando la mappa del comune, che tra l'altro non è così semplice da trovare con i dettagli. Ti posso dire che noi possiamo andare solo entro il comune, finché non passiamo in zona gialla, zona bianca, quello che è. Ora come ora siamo arancioni, quindi abbiamo questa limitazione, a meno che non ci siano dei gravi motivi, o che sia per lavoro, o che sia per motivi sanitari, e tutte quelle solite cose. Comunque, io ho qua l'elenco, il territorio che è Lanusa, Portoferro, Lago di Bara, Salcentiera, Porto Palma, Lampiano, Stagno di Pilo, Spiaggia di Sfumessanto, Platamona, Bunnari e Valle di Ciclamini. Quindi mi stavo cercando un percorso d'emergenza, però vedi, a Bunnari si arriva perché è sicuramente tutto entro Sassari. Il problema sono gli altri, diciamo un po' più lontano, tipo Argentiera, non so se sconfini come strada in qualche altro comune, ecco, tipo Alghero o chissà da dove. Infatti, perché se tu sconfini ti fermano, ti fanno 400 euro, se non hai un buon motivo. Infatti, quello è il problema. Capito? E quindi c'è questa cosa che ci dobbiamo. Guarda, tu figurati, l'altra volta avevo chiamato anche i vigili urbani ed erano un po' rimasti così, perché non sapevano. Neanche loro c'era tanta di quella confessione, che neanche loro sapevano dirmi che se andavo di lì poteva. Mi hanno detto che sarei dovuto passare nelle stradine, nei vicoli, negli serrati, eccetera, per sbucare in modo da rimanere dentro e così di stazza. Guarda. Perché quando stavo uscendo da casa, quando c'era la zona rossa, l'anno scorso, mi ha fermato la polizia e io avevo chiesto, mi ha detto: ma dove stanno? Sto andando a Porto Torres per fare allenamento. Mi ha detto: no, guarda, io non ci può andare a Porto Torres, non ci posso andare, davvero. Non posso neanche andare più vicino, ma secondo la verità passa sempre un altro comune. Guarda, una disperazione. Sì, si tratterà di aspettare una settimana, venerdì daranno il coso che siamo gialli, perché siamo già da gialli, solo che per precauzione ci hanno lasciato arancioni. Io penso che bisogna aspettare una settimana e siamo a posto. Io non mi fido a uscire. Stamattina sono andato a fare la visita diabetologica, però fuori dal comune non mi fido, sai, mi bisigheggia. Ma infatti, su quello sono d'accordo, non ne vale la pena. Poi magari sai, quando ti pizzicano, magari pensi di farcela, invece ti se li trovi alla Sconfidata, soprattutto se sono non tanto quelli di Sassari che sono abbastanza, ma quelli di fuori, capito, se scompri un comune magari si appostano lì e ti fregano. Comunque, vediamo, io sono un po', come dire, non ho molta fiducia nelle persone, perché vedo troppa gente che, poi l'hai visto tu stesso cosa è successo, eravamo tranquilli noi in zona bianca, è durata pochissimo. Se ci sono in giro questi matti che ci mettono nei guai, qua non usciamo più. Sì, infatti, è un rischio anche per quello. E a me mi hanno fermato i carabinieri scendendo da campagna e me la sono salvata per miracolo. Gli ho detto, sono andato a farmi la spesa, gli ho detto, e non mi hanno fatto nulla. No, comunque la campagna ce l'hai fuori, tu ci puoi andare, perché puoi dire, c'ho anche il cane a cui dare da mangiare, allora sei in regola. No, dove sta andando? Quando eravamo in zona rossa mi hanno fermato. Sì, sì, lo stesso, è un caso urgente, perché ovviamente l'animale non può rimanere senza mangiare, quindi, ma anche se dovessi fare l'orto, prendersi qualcosa nell'orto, capito? C'è la giustificazione. E infatti, poi io ho la giustificazione ancora di lusso, perché io ho la residenza lì. E figurava come che stavo uscendo da casa io, capito? Adesso sono andato a farmi la spesa. Ma dove sta andando lei? Ma fatto, a farmi la spesa giù. Ma erano tranquilli, erano carabinieri. I carabinieri erano, allora. Ma ho stato alla paletta e mi sono fermato, proprio scendendo la campagna, vicino a casa di Marco. Più giù c'erano loro. Ma anche una seccatura per loro, lo fanno proprio se ci sono costretti, perché poi si tratta di stare lì, fare il verbale. Proprio adesso in giornate tipo quella di oggi, che poi c'è un caldo, quindi anche lì non ha rotto le scarpe. Poi intanto mettono la contravvenzione a te, se ci sono 4-5 imbecilli in giro bevendo, ubriacandosi, facendo anche danni. Quindi in realtà poi sono molto elastici, e se sono costretti non passano, ti avvisano. A me mi hanno preso la patente, deve essere sono andati a telefonare in centrale a vedere chi era e chi non ero, e mi hanno sommato i documenti e me ne sono andato. No, te lo dico io cosa hanno fatto. Hanno chiesto il controllo del nominativo per vedere se eri uno di quelli che deve fare la quarantena, perché se c'è la quarantena non puoi uscire di casa a prescindere, e molti di quelli ne hanno questi cazzi, cioè ti dicono che devi rimanere in casa e invece te ne vai a spasso. È per quello che chiedono sempre, in ogni caso fanno il controllo su quello finché dura questa cosa. Infatti può anche essere quello. Altro che quarantena, di tamponi me ne hanno fatto già 3, perché ero sempre da un ospedale all'altro, ma dimmi, me l'ho presa buona già quest'anno. E come tutti i natali, guarda, siamo tutti nella nostra barca, che più che meno, ma è un disastro, guarda, un disastro. Non puoi andare dal dentista, no? Cioè, o meglio, ci puoi andare, però se è sempre così. Poi in questi posti, sai, il rischio più elevato, ci guardano una cosa e poi ti sempre di un'altra. È un macello. Ma ti hanno chiamato a te per il vaccino? Ancora niente? Niente Gianfra. E io sono del 57, poi sono diabetico, non mi hanno chiamato assolutamente. Mi sono prenotato addirittura, sia io che la 50. Siamo tutti e due prenotati, mi è arrivato il messaggio che della prenotazione che mi avrebbero contattato. Io non so come fai, questi se ne dimenticano, perché stanno già preparando quelli per i 50 anni. Sì, registrato il break. Sì, a parole sì, dei 50 anni, anche in avanti a parole. Però ancora non hanno neanche iniziato con noi, tutti dello stesso anno mio, non hanno neanche iniziato, perché hanno, per lo stesso motivo, hanno chiamato alcune persone che sono del 50, però la settimana scorsa, capito? Quindi dal 50 aggiungersi altri stesse, oi. C'è un break, avanti. Sì, ciao Gianfranco, siete già tre amici, dai. Doppio lungo a questa parte. Io l'ho già fatto il primo, mi hanno chiamato al centro diabetico e l'ho fatto il primo, l'altro ce l'ho il 14. Io qualcuno non so se sta chiamando, ma tu sei più giovane di noi, sì? Io sono del 59. Sì, vabbè, sono un ragazzino. Cioè, quanto ho grandi in meno. Riprendi Natale. Io sono al Palazzo Rosa, però non mi hanno. Mi hanno detto di prenotarmi. E tu? E io sono già prenotato dal giorno 22. Figuriamoci un po'. Io la 50, la 50 addirittura è più grande di me pure, di 5 anni. Non hanno chiamato né a me né a lì. Tra l'altro a me è arrivato un messaggio che stavano facendo i vaccini gratis alla cronocamera anche senza prenotazione. E allora domani ci vado io alla 50 e vediamo un po' se senza prenotazione me lo fanno. Perché io sono anche diabetico, ho avuto un infarto, quindi patologia ne ho. Cronocamera! Mi stavano facendo gratis, io infatti chi me l'ha mandato a me, io gli ho scritto già che l'avevo fatto, ho fatto lì al centro diabetico, lì alle cliniche San Pietro. Sì, sì, no, attenzione, il vaccino a prescindere è gratis, non che te l'hanno fatto fare gratis per piacere, è gratis. Natalia, ti devi guardare che c'è il calendario, devi rispettare il calendario della promocamera, perché credo che di domenica abbiano fatto sorso, senno, diciamo, generalmente i paesi, però in questa settimana c'è anche Sassari, in cui puoi andare anche senza prenotazione. E dove si trova questo calendario delle vaccinazioni? È online, se te lo cerco un attimino, riprendi già. Guarda per Sassari quando tocca, che così vado con la 50 senza prenotazione, ce lo facciamo fare, noi siamo già in età. Ehi, la miseria quanto sono sparati questi. Allora, ti do tutto, guarda, devi andare, se c'è il computer, no, su Google, fai UB vaccinale promocamera, calendario. Io ho quello, anche quello, cioè questa settimana c'è, cioè, oggi tocca dalle 9 alle 10, possono andare quelli, tutti i cittadini residenti stabilmente nel comune di Castelsardo, con più di 70 anni, ma poi ci sono quelli di Ploaghe, quelli di Valedoria, dalle 14 alle 15, quelli di Sassari nati da gennaio del 1942, cata, ma sono in ritardo, dalle 15 alle 16, quelli sempre del, nati luglio, dicembre, sempre del 42. Quest'anno anche molti, presumo, o no? Sassari, poi ci abbiamo del 43, quindi oggi niente, oggi bisogna aspettare, vediamo un po' quando tocca quelli almeno over 60. Figurati, mercoledì 12 maggio, quelli di Sassari dalle, dov'era, dalle 14 alle 15, nati da luglio a dicembre del 51. Quando al 57, ma quelli che hanno delle patologie dovrebbero andare senza appuntamento, penso. C'hai ragione, se però trovi 50 persone, cioè 100 persone che sono di lì, di queste categorie qua, che vanno perché è tutto aperto, ti devi stare di lì con tanta pazienza prima che ti chiamino, perché bisogna anche andarci un pochino prima, una mezz'oretta prima, perché poi è un disastro, non c'è mai posteggio, non c'è niente, in quel posto, per posteggiare in strada. Avanti già. Comunque l'altro giorno ho visto che rombe di ieri, c'erano i vigili urbani per regolare il traffico, eccetera. C'era il mondo. E a me no, me l'ho chiamato loro, mi hanno detto di andare che mi stavano prenotando. Ci sono andato e me l'hanno fatto a mezzogiorno, me l'hanno fatto tranquillamente. E penso che tutti quelli che siano seguiti da un diabetologo dovrebbero chiamarli, c'hanno l'elenco loro. E l'elenco lo presentano dove fanno i vaccini e ti chiamano. Già fa, non volevo dire poco fa gratis, volevo dire senza prenotarti la visita gratis. Sì, infatti, grazie. Sì, le chiamo, ma anche per voi comunque erano sempre in ritardo in ogni caso. Cioè la Sardegna veramente è molto, molto, molto, molto lenta. Fuori ho sentito stanno facendo tutti, hanno già iniziato con i 50, no? Con quelli che hanno 50 anni e tra poco passeranno a quelli sotto. Io non so tutte queste cose. Anche gli universitari chi studia all'università hanno precedenza. Sì, vabbè, quella è un'altra storia, dai. Però le hanno fatto la Sardegna. Nel frattempo è morto un altro di quelli. Sembra che stia prendendo con i militari. Anche quello che era in marina lì alla Maddalena, che poi l'hanno portato al Bruzzo, sempre lo stesso motivo, ci ha avuto una trombosi addominale. Vabbè che capita uno su mille, però cacchio. E chi lo sa cosa ci fanno? Chi lo sa? Adesso glielo chiedo comunque la prossima volta che vado. A mio non pare che sia quello Pfizer. Sì, guarda, il tuo possono essere solo due, o è Moderna o è Pfizer, gli altri non te li possono fare, quindi tu hai fatto, tanto non te l'hanno dato il tesserino, ti hanno il tesserino con tutte le caratteristiche anche del vaccino, se c'è andata mia sorella gliel'hanno dato, l'hanno fatto il Moderna. Io ho fatto solo il primo, abbiamo dato il tesserino che c'è appuntamento per la prossima volta, per il secondo vaccino, capito? Quindi non c'è scritto cosa mi hanno fatto, c'è scritto solo il giorno dell'appuntamento che devo andare. No, in quello che hanno dato a mia sorella c'è scritto Moderna, perché così chi te lo fa non si sbaglia, capito? Comunque, ognuno sta facendo il suo, chi ne capisce è bravo. Riprendi Natali. Sto leggendo, ma un macello. Infatti se c'è un bel di gente è come se si fa. Quello è il problema. Ma io penso che piano piano si dovrebbero anche un po' ridurre, o perlomeno dovrebbero avere la precedenza che ancora non l'ha fatto, ecco, solo che c'è tutto un disordine, guarda, non vuoi bene a dirlo. Comunque aspettiamo, qua siamo in Natale. Dove sono Matteo c'erano due ambulatori, uno per il primo vaccino e uno per il secondo. No, al promocamera mi hanno detto che zeppo, ci sono quelli stand che praticamente ce ne fanno una cinquantina, credo, quindi sono parecchie che li fanno, solo che se c'è molta gente c'è molta gente, anche perché per ognuno poi sono 15 minuti d'attesa, una volta che l'hai fatto poi devi compilare il foglio che ti porta via parecchio tempo, che è la autorizzazione e così via. Riprendi Natali. E aspetto che mi chiamino loro, da tanto a me mi è arrivato nel telefono il messaggio che hanno accettato la prenotazione, capito? Mi chiameranno loro, così mi danno l'orario, no? Non devo stare lì tutto il giorno aspettando. Bravo, me lo faccio e via quando mi chiamano. E se no non mi ne voce, sono più contento duro. Sì, vabbè, è meglio farlo, Natali. Gli effetti si sono visti e chi l'ha fatto sta abbastanza tranquillo, al netto anche dei vari incidenti che ci sono stati. E niente, tutto lì. Gianni, tu l'hai fatto, io l'ho fatta la cosa lì, la transazione circa 2 mesi fa. Tant'è vero che pensando che non avessero ancora elaborata, ne ho rifatto un'altra e mi ha fatto il messaggio: no, tu sei già iscritto, non ti puoi più iscrivere un'altra volta. Ho detto, no, va bene, quindi no, l'hanno presa in carico praticamente. Adesso aspettiamo qualche altro tempo. Allora, la domanda non mi ha fatto per niente, mi hanno chiamato, ha accettato i diabeti e mi hanno chiesto se volevo farlo. E io gli ho detto all'inizio, non lo so, ero un po' incerto, perché amici che lavorano sulla rete, ma io non è fare che sono solo prove che fanno su di noi, noi siamo solo delle cavie e basta. E un po' mi ha dato a pensare, vabbè, poi mi hanno detto, si ricordi che c'ha le placche, che è diabetico, che qua, che là, alla fine sono andato. Ma io sono al Palazzo Rosa e nulla, non me l'hanno arrivato il vaccino, non mi hanno chiamato nei luoghi, ho fatto la visita diabetologica e quella mi ha detto di iscrivermi alla piattaforma, mi ha dato l'indirizzo, sono andato lì e mi ha detto che ero già iscritto, come ha fatto Gianfranco, la stessa cosa. E allora faranno scaglioni, chiameranno sicuramente. E vabbè, hanno organizzato diversamente, ognuno ha organizzato nel suo ambulatorio, organizzato come voleva, come forse hanno potuto meglio fare. Da noi è così, da noi hanno fatto un elenco, per le persone le chiamano in base a quello che c'hanno nel computer, ai pazienti che c'hanno, li chiamano uno a uno e le chiedono se vogliono andare. A me me l'ha fatto fare, la sera mi ha chiamato e il giorno dopo l'ho fatto. Vabbè, l'ospedale vuol dire che sono di serie B, il Palazzo Rosa. Aspetteremo che ci chiamino. Sì, vabbè. Più lento. Sì. Sì, comunque hai fatto bene a farlo Gianni, perché i diabetici, come per altre cose, sono ad altissimo rischio. Ripeto, ma quelli che ti hanno detto quella cosa non hanno visto niente evidentemente. Io anche per motivi di lavoro ti dico sono andato, sono dovuto andare. Non è un bel vedere, ti posso assicurare che non sono tutti certo anziani, o perlomeno non sono vecchi, ecco, quelli che ci sono lì. E gente, c'è anche gente della nostra età, quindi insomma, ti fai due pensierini, quelli che sono i suoi barrosi, che dicono sono ferimenti, sono qua, perché sono che hanno la cultura che hanno, però bisogna leggerle le cose, leggerle bene. So io. E se per vedere se quello che scrivono, anche tu leggi, sia una cosa veritiera o meno, quello è il problema. E vabbè, non sappiamo, non abbiamo mai saputo cosa ci mettono nei vaccini, anche da piccoli facevamo i vaccini, non si sapeva cosa c'era. Ma cosa c'era si sa Gianni, perché guarda, io per motivi di lavoro ti posso dire che è tutto certificato. Allo stato attuale questi, per questioni di fretta, sono ugualmente testati, ugualmente, però quello che succede dopo non lo sappiamo. Però secondo un criterio scientifico, tra non farlo e il farlo, se ti pesca sono, e non l'hai fatto, sono guai grossi, perché questo in realtà serve per evitare che muori, in parole povere, perché ti riduce di parecchio l'infezione. Come tutte le infezioni, tu lo dovresti sapere bene, se pizzica un diabetico o se pizzica una persona debole, anche giovane, se la porta via subito, c'è certo di non offrirti. quindi questi vaccini, AstraZeneca compresa, hanno la possibilità di bloccare ma soprattutto di prevenire gli eventi avversi gravissimi, e questo è stato sperimentato su milioni e milioni di persone oramai. Se non l'Inghilterra non avrebbe fatto quello che sta facendo, Israele ha aperto tutto da un po' dopo aver fatto i vaccini. E poi guarda anche i grafici della mortalità, è crollata. Però bisogna sempre guardare quelli scientifici, non quelli che uno trova su Facebook o quelle cavolate lì. KK, staremo a vedere. Qualcuno mi ha detto che provoca problemi a livello neurologico dopo un paio di anni. Sì, sarebbe bello però che queste persone dicessero chi gliel'ha detto e come hanno fatto una scoperta, perché la scienza è fatta soprattutto di fatti. Tutte le avvertenze sono lì nel bugiardino. Se tu ti guardi il bugiardino di qualunque farmaco, cioè, guarda, è capitata a me un'esperienza, c'era scritto su un particolare farmaco che mi hanno dato, adesso prendete questo, e io volevo le persone che camminavano dentro la stanza, non c'era nessuno, io subito ho chiamato, ma Giovanni, cosa mi avete dato? Sì, è un effetto avverso, quindi mi interrompa subito, perché sono cose che capitano a una persona su 10.000 o su 100.000 addirittura, se non pure su un milione. Allora è capitato, lo blocchi e finisce tutto lì. E purtroppo già la palla di vetro non ce l'ha nessuno, già ne abbiamo visto, io ho visto gente che per una misera pastiglia di coso lì, di aspirina, ha avuto una reazione che guarda, micidiale, ragazzo, nel pieno della forza fisica anche atleta, c'è stato niente da fare. A te cosa te va? Allucinogeni? Non ho capito già. Ho detto, sentiamo l'altro allucinogeni. È un effetto neurologico che ti ha portato a questo, alla prima dose maledetto. Anzi no, dopo una settimana stavo prendendo, ho detto ma forse è buono, e poi ti vedo questa gente che caspita, perché a volte fanno effetto dopo una settimana, e tutto dipende anche dal dosaggio, da quanto ne accumuli all'interno del sangue, ma tutti i farmaci, tu guardi anche la crema che prendi al supermercato, le indicazioni, attenzione, potrebbe dare effetti avversi. Anzi, a proposito, guarda, ieri sono andato a fare la spesa del MD. Io di norma prendevo delle patatine, c'era un cartello con le patatine di quella marca, io non le ho prese, però c'era un cartello, l'attenzione, tutti i consumatori che hanno comprato queste patatine sono invitati a portarle indietro perché contengono una particolare sostanza, nell'interesse dei consumatori abbiamo deciso di ritirarli tutti. Chissà cosa c'era anche scritto il nome, però evidentemente era un qualche allergogeno che poteva creare gravi effetti, perché per ritirarlo al commercio. Quindi come vedi, anche sul mangiare c'è sempre la sorpresa. Riprendi Natalia. Tu fidati, a me mi ha fatto male la tachipirina, figurati. Ti ha fatto male al fegato, però perché la tachipirina è famosa per quello. Natalia, ti ha fatto male al fegato, confermi? No, non prendevo più nessun sapore, nulla, guarda, mi ha fatto questo effetto brutto. Dato che molti parlano di vaccini, però non sanno che negli Stati Uniti c'è una mortalità per tachipirina micidiale, la più usata in assoluto per i suicidi, infatti, quasi molta gente che senti abusa di tachipirina e provoca la cirrosi epatica fulminante. Non c'è niente da fare, anche se non bevi, non fumi, no. Fai delle dosi ripetute anche per cura per parecchie settimane è diventato molto pericoloso. Purtroppo così. Riprendi già. Sì, vabbè, ci stiamo a fare queste cose, già fra. Certo che l'abuso in ogni cosa fa male, ma è normale. Se le cose vanno prese correttamente non fanno male, ma se vengono prese con l'abuso è normale che facciano male. E tutte le cose sono così, anche l'acqua fa male se è bevitata. Io ne ho un'esperienza, mia sorella è entrata in coma perché beveva troppa acqua. Aveva diabete insipido, non l'avevano scoperto, lì bevendo acqua è entrata in coma. Ma ce ne vuole, già lo sai, già anche tu già hai avuto tante esperienze con l'ambulanza, ne avrei visto tanti di questi eventi, e che purtroppo ci sono, non è detto che tutti si debbano suicidare, però a volte uno lo sa e si prende qualche farmaco. Certo, infatti tutti lo scrivono e tutti mettono se hanno tacco nei bugiardini. Se li guardi dici, cavolo, sembra di correre un rischio enorme. E c'è anche la percentuale, 1 su 100, anzi iniziamo 1 su 10, 1 su 100, 1 su 1000, 1 su 1 miliardo, capito? Tutte quelle cose lì in percentuale. Quindi chi lo sa, siamo tutti nella mano del piano superiore in età. Oh già, la palla Pasimari, non l'epa, la palla. L'acqua bevuta sproporzionatamente, come ha bevuta mia sorella, che 21 litri al giorno, ti fa male, ti cancella tutti i valori, praticamente ti rimangono tutti sotto zero. Vabbè, se ne bevi, guarda, l'acqua vuole bevuta almeno 2 litri al giorno, almeno 2 litri. E io già li bevo, non c'ho problema, ma le bevo perché ne ho voglia proprio di bere. Poi chi è diabetico non sa che il diabete porta molto a sé. Ma dicono che bevono tanta acqua ti fa abbassare anche la glicemia, è vero? Magari di più, ma è vero, assolutamente. Allora, praticamente quando tu bevi molto è perché hai la glicemia alta, specialmente se bevi molta acqua e vai molto in bagno. Quando hai la glicemia molto alta ti succede così. Saluto a tutti, avanti, ciao Gianfra. C'è anche Natalino, mi sembra di aver sentito da lontano. E io non bevo molto, oggi avrò bevuto sì o no un litro d'acqua. E per forza bevi birra e vino. No, né birra né vino, solo acqua, un litro d'acqua ho bevuto oggi. E stamattina ho bevuto il latte, E anche Coquomane, Luca, per quello. Vabbè, puoi usare. Sì, io pure lo so, Cittina. A me mi ha fatto male la pastiglia del diabete, ho dovuto riprendere l'insulina. La telefonata è impressa alla diabetologa, mi ha fatto male. Dopo va in farmacia mia moglie e gliel'ha detto che faceva quell'effetto lì, ma dimmi tu. Ma non è che preso il Viagra, no, fai sbaglio. Forse ho sbagliato, però non mi ha fatto altra cosa. Sì. Ah, sono l'unica concetta, che mi dice sempre Cuomo, aspetta che la chiamo al telefono, glielo dico. Dai, riprendi tu Gianfra, va. Ecco per me. Adesso che Gianni mi ha detto che sta bevendo una birra, vado e bevo una birra, va. La faccia sua. Lui. Ciao Claudio. Buonasera a tutti. E vai tu, mi di re. Vabbè, Cuomo. Tu lo sai? Tutto lo sai. Pure la risa ne è cappata. Ciao Gla. Ciao Natali, ciao a tutti. Sono andato a salutare e basta. Avanti Gianni. Ciao Claudio, buonasera. Adesso rimango un attimo in ascolto io, perché c'è gente a casa, dai, vi lascio. E magari vi prendo dopo, dai. Sto un po' di ascolto. Gianni, gente ne dicono, no, a casa. C'è anche oggi. Lo so, anche domani. Dai, riprendete, dai, anche io mi assento. Ciao. Ciao. Ti sto stavo chiamando, aspetta, no, allora, Cacarella. Ehi, chi? C'è anche chi? No, anch'io rimango in ascolto perché sto aspettando il mio vicino che deve portare un po' di verdura, vai. Vi lascio, rimango in ascolto, riprendi Gianfranco. Sì, ok, ciao allora Gianni, ciao Luca. Ciao Claudio. Si conviene perché sta. Cavolo, si sta volando qua. Boh. C'è un caldo, qua ci sono 24 gradi, però si stanno volando questo, perché aveva detto che peggiorava. Giustamente ho tagliato l'erba e chiaramente adesso piove e ricresce subito. Poi riprendi Natali. No, io la taglio dopo domani, piove già fra, l'ho lasciata, la taglio dopo domani. Brecco! Ehi, vabbè, ma mi hai chiamato? Ehi, tu non rispondi mai. No, io non rispondo, no, ma qui squillato il telefono, è lì il problema. No, non eri raggiungibile, poi mi è arrivato il messaggio, niente di importante. Mi è arrivato il messaggio che eri libero, però era già ora di pranzo, ho detto dai, non c'è problema. Poi Mario, se passi domani ne parliamo. Ehi, vabbè, niente di che. No, niente di importante, non la dico. Poi la cosa tua, mi ha detto che dopo domani si risolve tutto, c'era Marco oggi. Sì, erano dopo domani, sì. Dopo domani alle 11, ho appuntamento con quel servente. Infatti mi ha detto, almeno finalmente risolvi, cazzo. Ciao Gianfranco, comunque Natalino, Luca e tutti gli altri che ci sono qua all'ascolto. No, è che risolvi, no. Finalmente in cascio, che è diverso. Non è chi su che conta. No, infatti, si sta aspettando da lui invece a cazzare dei soldi. Va bene, dai, rimani in ascolto, vabbè, sì, domani intanto vuoi scendere a Sassari e quindi già ci posso trovarti così mi dici, dai. Io sono riuscito a mettermi in contatto col tecnico oggi stamattina alle 8:30, mi ha risposto, ha detto che era in Francia e quindi non poteva rispondere. La radio mia parte a fine settimana, dovrebbe mandarmela giù. Ehi, ok, comunque qua sta arrivando quasi 9:35 Claudio. Ehi, l'antenna è sempre bassa, l'antenna è a 2 metri da terra, non ne ho voglia e c'ho altre cose da fare. Però no, tu sei venuto, vabbè, sei l'unico che sa dove sono, quindi non è che avevamo dubbi a farmi sentire, già mi faccio sentire, chiaramente il segnale è più basso rispetto a prima, ma non è che sia lontano molto, già va bene. Una voglia, una bomba, la radio pure troppo forte per i miei orecchi. Ascoltami più tre, questa stanzetta, c'è un armadio, una base, un comodino, insomma è vuota, rispetto all'altra è tutta vuota. Va bene, Gianfra, a te, anzi, aspettava Natalino, cambia per Natalino, io rimango il QRX, vabbè ci aggiorniamo dopo, ok? Sì, anche io, va, saluti a tutti, rimango in quel Rix pure io che devo fare una cosa qua, se riprendo dopo. Ciao a tutti. Ciao Natalino, vai Gianfranco. Sì, ciao Natalino, ci sentiamo, buona serata. Ciao Roberto, ben entrato. E adesso ci abbiamo anche Claudio Campagnolo, quindi la famiglia si allarga, siamo tutti all'agricoltura. No, già è bello, se c'è una bella posizione non troppo lontano già si sta bene. Poi ci sono quelli che magari se ne vanno nei paesi per risparmiare qualcosa d'affitto, avere magari un terreno più grande, cosa del genere, però a me stare troppo lontano dai servizi, dove lui è quasi città, dai. Sì, anche dove sono io ti fai 150 metri, forse anche qualcosa in più e c'è la fermata del tram. Se possiamo poi andare a piedi e poi sei collegatissimo perché c'hai l'imboccatura per andare al mare di Alghero, di Porto Torres e poi andando dall'altra parte c'è la cosa per Cagliari, quindi meglio di così. Certo, l'importante è che non devi fare strade, diciamo, viottolini, servitù e cose, eccetera, eccetera. Vabbè, anche vero che non tutto si può avere. Naturalmente poi ognuno, in base alle proprie disponibilità, fa quello che ci può permettere. Sicuramente non è per tutti trovare la casa a 200 metri dalla periferia, una villetta col terreno e con piscina. Chi ce lo può permettere, buon per lui. Sì, beh, non è neanche, guarda, c'è un periodo in cui anche qua hanno venduto molto, ma hanno venduto tutti molto male, perché nessuno le voleva, cioè la gente mi diceva uno, per fare a, per andare a casa, cioè, diceva che la gente è fissata, vuole sì, cioè non vuole la campagna, vuole la casa, che è una cosa differente, cioè la casa con un fazzolettino di giardino, in modo da non lavorare, perché pensano che mi fare la massa, capito? Che la gente non è abituata. Però così anche qua, qua ad esempio è un ettaro, ma in proporzione tutti i miei vicini più o meno siamo giù di lì, chi ne ha 600, chi ne ha 700, e poi c'è anche la piscina. Sì, ho capito più o meno dove sei tu, c'è un'amica mia proprio ieri, c'era, anche lei c'ha un ettaro di terreno, c'ha la casa al centro, però veda tagliamo di erba, ieri stava tagliando erba, un maschio, se la vedi lavorare col decespugliatore ti mette le mani in testa. E ieri c'ero anch'io e forse ho anche esagerato, ti dirò, perché c'era sole, c'era questo sole micidiale e ti arrostisce veramente, quindi pesante, c'è poco da fare, però va fatto comunque, a meno che non te la tieni, però poi secondo la posizione in cui sei c'è sempre il pericolo dell'incendio, che con queste temperature già come avevamo ieri non ce la stare molto tranquilli. Sì, bisogna stare attenti a quello, soprattutto agli incendi, che lì basta poi, se c'è appena di vento, cerca di distruggere tutto. Infatti gli ho detto, stai molto attenta, c'è tante case vicino, però ho detto, se non tagli qua, quando inizia a seccare, buttano un cerino, una sigaretta, piglia poco tutto, devi stare attenta anche alle tue case, oltre che quelle degli altri. Purtroppo, vabbè, guarda, è uno dei pochi, io ho visto anche il canale, quando era 2 anni fa qua, e gli elicotteri che si era bruciato di la vallata, un fumo, cioè si vedeva l'elicottero che entrava dentro e spariva praticamente, perché hanno fatto tutto, hanno bruciato tutta la zona e andava dove ci sono i binari che, della ferrovia che portano a Cagliari Alghero. Ma devi vedere cosa c'era. Lo so, un paio d'anni fa. Ma ogni anno c'è sempre qualche zona che devono fare per forza bruciare qualcosa, sembra che lo facciano apposta. Dai, quest'anno bisogna bruciare quella zona lì, l'anno prossimo bruciamo una. Mi ricordo quando aveva bruciato giù a Platamona la Pinetta, cazzo, quella roba di danno. Poi è cresciuta, grazie a Dio, dopo una decina d'anni è ricresciuta tutta. Poi 2 anni fa, no, quando è? Parliamo di 5 anni fa, aveva bruciato il pezzo dello stagno. Cazzo, ma sono arrivati una marea di canale, sembrava avesse bruciato chissà che cosa, perché lì era pericoloso perché ci sono i villaggi vicino, ma ne hanno buttato di acqua a tonnellate. E poi se guardavi la grandezza dell'incendio era piccolino, non era grande, però sono stati tutta la sera dalle 3 del pomeriggio sino alle 10 di sera buttando acqua, sino a poco prima di far buio, sino a 9:30 buttando acqua, prendevano l'acqua dallo stagno, e buttavano, e poi e dal mare. Ma ne hanno buttato, avevano fatto qualche 80 di viaggi in Canadair. Sì, è una cosa micidiale, perché lo devono assolutamente spegnere quando, per evitare i casini, capito? Perché se c'è la strada non lo fermi più. Purtroppo bisogna sempre stare all'erta proprio su quello, quando inizi a camminare che prende la rincorsa, poi è un disastro, è difficilissimo da fermare, occorrono più mezzi aerei e tutto, e c'è anche il rischio che qualcuno poi ci rimanga, come al solito, no? Già non ci siamo dimenticati cosa era successo lì a Curraggia. Sì, non mi ricordo. Io l'incendio mi sono trovato in mezzo al fuoco in Corsica, ma hai visto una cosa del genere, inceneriti migliaia e migliaia di ettari inceneriti, una cosa mai vista. Ci hanno bloccato, poi sono ripassato al ritorno perché stavo andando verso Aiaccio, era una cosa mai vista, io in vita mia non ho mai visto una desolazione di animali, terreni, case, cosa ha fatto di danno, tipo quello di Curaggia di Tempio, però quello di Tempio era alimentato di lì, qua stiamo parlando di migliaia di ettari di terreno, una cosa mai vista, cioè, io non ho mai mai visto in vita mia una cosa del genere. Ma cosa c'erano? Di mezzi di soccorso, di canadese c'erano, anche dall'Italia sono arrivati, 12 ce n'erano in contemporanea. Era una cosa mai vista. Però nonostante tutto ha bruciato tanta roba. Poi tieni presente anche che quando il canale era a terra, no? Ho visto tante volte che faceva anche 30-40 pieni in mare, tutta quell'acqua fuori dal terreno non le fa bene purtroppo, però non puoi andare certo in aeroporto a rifornire. Certamente, a meno che non c'hai dei laghi di acqua dolce, Corsica ce n'è di acqua, non si lamentano, però quando ci sono cose così grosse non è che puoi andare tutti in un laghetto a prendere l'acqua, per cui vanno nel punto più vicino dove c'è mare, il punto più vicino, però era una cosa mai vista, una cosa allucinante. Va bene, dai, cambiamo discorso. Tornando a noi, mi hai parlato tu l'altro giorno, quel filtro 8808, tu l'hai mai utilizzato effettivamente, Gianfra? Onestamente non me lo ricordo, perché poi era, non so neanche dove sia finito, forse l'avevo dato, era della cosa, come diavolo si chiama, la ZG, ecco, era quello della ZG, quindi non ti posso dire neanche a quante celle era, perché alla fine è quello l'importante, no? Sono dei filtri passa basso o passa alto. Generalmente e anche quelli attenuano anche un bel po', quindi quello lì non credo che fosse neanche in trasmissione, non si poteva usare in trasmissione, credo. No, no, io parlo di ricezione, non mi interessa, trasmissione non mi interessa. Ci sono tutti parlando con i ricchi della ZG, molte volte c'erano quelli che tutti mettevano anti TVI, ma ormai non ci sono più quei problemi. Prima perché c'erano impianti, c'era analogico, c'erano sintonizzatori di TV molto scaccini, adesso sono molto stretti come amplificazione, per cui amplificatori interni amplificano solo con la banda lì, prima invece amplificavano tutto, basta che c'avevi un po' di microfono amplificato, entrava da tutte le parti, c'avevi un baracchino un pochettino tirato il collo, ma adesso diciamo di TVI non ne sento più da un po' di anni. No, era specifico, perché all'epoca c'avevo anche lo scanner, e lo scanner se le beccava tutte, anche se se ero lontano diciamo dalle stazioni in 88, ma già lo sai che botte danno quelli. E quindi avevo provato con uno di questi filtri qua, però non mi ricordo se ce la faceva, mi sembrava una mezza cioffecca. Infatti bisogna capire se effettivamente funzionano o se sono anche attenuatori, che ti attenuano anche i segnali desiderati oltre che quelli indesiderati, che molte volte sono fatti un po' così, tipo questi accordatori ti fanno ridere, ne ho visto uno aperto della ZG, ma che cacchio di cos'è? Gira a vuoto, cioè le lamelle e il commutatore girano a vuoto, ma che cavolo è? L'unica cosa di valore erano i PL, il resto questo commutatore fanno ridere. Io confronto, per dire, vabbè, stiamo parlando di altre cose, i commutatori della Magnum, cacchio, tu vedi lo scatto bello tac, proprio duro, senti la meccanica che quando si inserisce e stacca, questa è la ZG, fai un mezzo giro e sono già spanati. E un altro lo stesso, me l'ha dato lo stesso, uno Claudio me l'aveva dato, sembra bello, poi lo vai a provare e ti fa tutto rientri. Infatti a quel punto io, siccome ho dei commutatori di roba militare, lo faccio da lì e non fa rompermi le scatole. Infatti io sto usando solo i delta 4 e delta 2 che sono testati e devo dire che ne sono soddisfatto, sono fatti molto molto bene, costano cari ma sono fatti bene. Sì, me lo immagino. Ma io ho questi grossi che me li aveva dati un amico, che lui ritirava roba su Plus, cose così, c'aveva tante cose. Ma tu devi vedere la costruzione, stiamo parlando di roba di 50 anni fa, cose grosse, proprio i contatti grossi, dove metti i cavi poi, belli con le viti belle grosse, passanti. Adesso ti guardi questi cacchio di ZG, senza dire ZG, ma ce ne sono tanti di queste marche così commerciali, ma sono ridicoli. E ti scrivono 1000 watt di potenza, ma dove 1000 watt? Se li dai 100 watt li sciogli. Ma tu immaginati che io qua davanti ho un accordatore della MFG, l'MFG dovrebbe essere buona, dovrebbe, e c'è il sistema roller, no? Che sarebbe quella molla, cioè quella impedenza lì che varia girando una manopola, che dice il conduttore che ti cambia il sistema d'accordo. Oltre a due bei condensatori, quelli sono ottimi. Beh, lo sai che già con 300 watt in HF ogni tanto senti tac, tac, tac, sono le scintille che si generano dentro, vedi anche il riflesso. Guarda, infatti l'ho modificato, l'ho un po' flaccato, eppure nel MFG, che non so se... Ah, e c'è scritto 1,5 kW, cioè, è meno male che è conosciuta l'MFG, per carità. Un attimo, Gianfra. Sì, fai. Scusa Gianfra, ho ricevuto una chiamata. Non c'è problema, non ti preoccupare. Vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno su canale 10, avanti chi vuole entrare, anche se sono sicuro che magari qualcuno non entra, ma ce ne sono tanti che ascoltano, come capita sempre. Che ascoltano, a noi ci va benissimo, l'importante è che non entri il disturbatore, che sicuramente magari è anche un ascolto. Ho visto l'altro giorno, anzi visto, ho sentito un po' di disturbi. Allora, quando si riesce a parlare comunque non ci sono problemi, basta evitare il problema. Quando il disturbatore è disturbato, effettivamente a chi con le mani col segnale più basso, come l'altra volta quando c'era Giulio. Sì, ma poi è una cosa anche, se vogliamo, vabbè. Però io che sono avanti, dopo le picche. Però per me è una forma di maleducazione, una cosa inutile, capito? Ma non è meglio parlare con le persone che stare lì a disturbarle, a provocarle. No, ma diciamo, secondo me è un senso anche di inferiorità, oltre che di ignoranza. È come quelli che ti graffiano la macchina perché tu l'hai parcheggiato la macchina vicino, lo stai disturbando, lo so, te me ne portano in officina di macchine così. E che è vicino perché adesso perché ho messo la macchina vicino alla macchina sua, non è riuscita a uscirne bene e me l'ha graffiata. C'è gente ancora che fa così, ma anche donne anziane, uomini anziani, non dico ragazzi, perché magari i ragazzi ti affrontano. È più facile che c'è una persona di una certa età che ti faccia, ma ho visto dei lavori di questa persona, quando me l'ha detto, che poi ha scoperto chi era, perché alla fine l'hanno tentato, ha messo le telecamere, una macchina nuova, nuova, nuova, una Renault Megane, cazzo, non è possibile, non è possibile, alla fine l'ha tentata, ed era la vicina, una donna anziana che aveva 78 anni, il figlio poliziotto, infatti l'ha mortificato, gli ha dovuto pagare tutti i danni il figlio. Sì, vabbè, però quello, vedi, quello magari sono forme di demenza, sono comprensibili, purtroppo non sono comprensibili le altre, però fatte da ragazzini baffali barrosi, per dire che loro sono coraggiosi, poi quando li trovi lì in questura stanno sempre piangendo, ma io non lo sapevo, ma io qua, ma è stato lui, perché poi si tirano dietro tutti e quindi è una catena. Quello dice no, ma è iniziato lui, non è stato l'altro, ma è sua. Oh, i poveri noi, che mondo. Purtroppo sono così. Ragazzi, oggi c'è anche da dire che non hanno niente da fare adesso. Già c'erano, prima non avevano niente da fare, adesso ancora di meno, perché con questo Covid sono tutti buttati, erano tutti buttati, non uscivano, rimanevano tutto il giorno a casa, stressati, PlayStation, eccetera, eccetera. Poi uscivano e si sfogavano. Infatti lo so quanti ragazzi, quanto è aumentato il tasso di depressione giovanile. C'è un amico che è un rappresentante di medicinali, mi ha detto è aumentato la vendita, dice lui porta nelle farmacie del 500% di antidepressivi per i giovani, dice una cosa mai vista, ne ho esperienza anche di gente che conosco, di figli usciti di testa, persone che hanno questa fase, questi che facevano sport, ragazzi per dire erano impegnati dallo sport, questo ragazzo è il figlio di una persona che conosco io, uscito di testa, l'altro la stessa cosa, perché non stavano facendo lo sport l'hanno bloccato e rimanevano tutto il giorno buttati in casa senza fare niente, irascibili a ogni cosa, si giravano, uno è uscito di testa, sono venuti i carabinieri a prendere, ma un ragazzo, stiamo parlando di 15 anni, non un ragazzo grande, sono venuti i carabinieri a calmare la situazione. è così, ma non è una giustificazione comunque, perché noi dobbiamo sempre pensare a quelli che poi veramente stanno male, eccetera, queste cose non le fanno. Cioè è una cosa della nostra società, perché è una società malata, una società in cui, guarda, hanno fatto un'intervista a quei ragazzi di Napoli, tu lo sai che fanno quelle cose anche molto, che sparano nei vicoli, ogni tanto qualcuno che ha facciato ci rimane, le stere, una cosa del genere, insomma, c'è un termine preciso. L'hanno catturato, che alla fine ci ha anche ripensato, le hanno chiesto ma scusa, tu perché fai il delinquente, ma non ti rendi conto cosa stai facendo? E questo ha detto, ma perché io devo vedere i miei compagni e gli altri con le scarpe Nike da, no, non da 100, da 100 sono molto di fama, da 250, quelle delle Jordan, sempre con le ragazze appresso, eccetera, io mi faccio un nome. E allora io me le prendo queste cose, cosa devo fare? Se no sono inferiore a loro. Capito com'è il ragionamento? Purtroppo questa generazione di smandati, i giovani, questo è successo da quando hanno tolto il militare obbligatorio, che io l'ho detto dall'inizio, ci vorrebbe una bella passata di leva, renderla obbligatoria, magari non severa come prima, perché prima era molto, molto severa, diciamo facendo sociale, lavori socialmente utili, per dire nelle piazze, nelle scuole accompagnare i bambini, quello che fanno i poliziotti molte volte, i vigili urbani, facendolo fare a loro, sorveglianze di zone abbastanza delicate, nei parchi, quando ci sono tutti, cose del genere, con una persona esperta vicino, e secondo me lo sai quanta gente si metterebbe a posto. Purtroppo adesso cazzo non si può fare, perché l'Italia è un paese contro la guerra, eccetera, mica devi fare la guerra, devi fare dare un'educazione a questi ragazzi. Sì, guarda, dunque ci sono due aspetti proprio su questo discorso lì. Il primo aspetto è quello economico, costerebbe molto caro. Noi ci abbiamo un esercito oramai solo di professionisti che rimangono di lì, che hanno un addestramento notevole, sono tutti giovani, c'è gente in marina, c'è anche gente di 20-21 anni, però sono tutta gente formata che entrano anche nelle scuole sottufficiali, nelle accademie, però guarda, ti posso assicurare che è difficile, cioè non è una cosa per tutti, e soprattutto richiede quello che a molti non piace, quindi faticare. E purtroppo se ci diciamo tutti a molti giovani, il sacrificio non piace, però quelli che ci sono di lì, quelli che fanno tutte queste scuole, che fanno un lavoro, lo fanno soprattutto perché le piace, perché sono appassionati. E purtroppo molti ragazzi anche come dire, spinti da certe cose, da certi esempi negativi, vanno, sentono la loro debolezza e le esprimono in questi modi, ecco. E questo è molto difficile anche, soprattutto se sono molto giovane, adolescente, poi ho capito. Non lo so, purtroppo. Siamo una generazione un po' particolare, noi l'abbiamo già passata, quelli che i nostri figli e i nostri nipoti, perché cazzo, molte volte quando sta lavorando non riesce a controllare, non sa dove vanno, hanno libertà che non ci sognavamo, purtroppo è così. Solo bisogna stare molto attenti, perché adesso con questi social network e cose varie, emulazioni eccetera eccetera, stanno succedendo troppe cose brutte. Ah, guarda, io ho dei colleghi, sia mamme sia padre di famiglia, che fanno una brutta vita obiettivamente, perché hanno figli che le rispondono, fanno quello che le pare, ma la mia amichetta si ritira a mezzanotte, io